Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Oggi ci sono io, domani torna Sebastiano Barisoni. Di cosa parleremo oggi? Innanzitutto faremo una puntata ad Expo, inevitabile, un passaggio ad Expo. Mancano 3 giorni all'apertura della manifestazione. Oggi è stata presentata la Carta di Milano, un documento con una serie di impegni sulla nutrizione della popolazione mondiale, che sarà sottoposto per la sottoscrizione a visitatori e rappresentanti delle istituzioni. Un documento che il ministro dell'Agricoltura Martina ha definito il vero documento, il vero lascito politico, per così dire, dell'Expo. E insieme a questo cercheremo di fare un punto insieme alla collega Sara Monaci del Sole 24 Ore, che di Expo si sta occupando da mesi, un punto sui padiglioni. A che punto siamo? Qual è la situazione? Il padiglione Italia è pronto o non è pronto? Quali ritocchi mancano? Che cosa c'è ancora da mettere a posto? Ci occuperemo di Gran Bretagna, siamo ad una decina di giorni dalle elezioni e oggi c'è un dato che è una brutta botta per Cameron, perché c'è il dato sul prodotto interno lordo che nell'ultimo trimestre è cresciuto dello 0,3%, le previsioni indicavano una crescita di 0,5 punto percentuale ed un tasso dimezzato rispetto al trimestre precedente, quando il PIL crebbe dello 0,6%, un fatto dovuto in gran parte al settore dei servizi che è rallentato. Vedremo di fare un punto tanto su questo, sull'economia britannica, ma soprattutto evidentemente in ottica elettorale, che cosa potrebbe comportare questo dato, se avrà effettivamente un effetto. Parleremo anche di tasse perché oggi è arrivata una ricerca della CNA, inizieremo ad ascoltare un passaggio dell'intervista realizzata dalla nostra Valeria De Rosa in merito alla pressione fiscale, al cosiddetto total tax rate, la pressione fiscale totale sulle imprese, ossia quella che per esempio tiene dentro anche le tasse locali, e la CNA ha pensato bene di scomporla per città. È un'operazione che fa ogni anno. Pensate, per darvi la misura, che il record va a Reggio Calabria, dove la pressione fiscale complessiva sulle imprese tocca il 74,9%. È in calo dell'1,1 rispetto all'anno precedente, ma rispetto al 2011 il rialzo è del 12,5%, 74,9%, un 75% sostanzialmente. Bologna al secondo posto, 72,9%, poi c'è Napoli, Roma, Firenze, tutte sopra il 70%, Genova al 66,8%, Milano e Torino al 62,7%, dove le più virtuose da questo punto di vista sono Sondrio e Belluno, che sono al 55,3%. Ne ragioneremo insieme al collega del Sole 24 Ore, che si occupa da tempo anche di fisco locale, che Gianni Trovati, col quale cercheremo di fare un ragionamento per capire da dove arriva tutto questo, qual è l'origine di tutto questo. Ci parleremo, come sempre, come facciamo tutti i giorni, di mercati. È una giornata negativa, un meno 0,91% sul FTSE MIB, un meno 0,81% sul FTSE O'Share, Parigi giù dell'1,7%, Francoforte altrettanto, Londra dell'1,37% e l'America appena positiva, più 0,18% il Dow Jones, più 0,08% lo Standard & Poor's 500, in un calo dei mercati, una debolezza dei mercati dovuta fondamentalmente a due motivi. Già la giornata era iniziata piuttosto male a causa del dato inglese, poi ovviamente si continua a vendere qualcosa dopo i rialzi delle settimane scorse, e infine ci sono i dati sulla fiducia dei consumatori americani che non sono stati particolarmente buoni. Il numero, come sempre, per intervenire via SMS è 349-238-6666. Iniziamo dalle notizie in breve di oggi. A proposito di Gran Bretagna ci scrive, mi scrive Simone, per l'amor di Dio parliamo di cose serie, è nato o no l'erede di Buckingham Palace? No, non è ancora nato, però devo dirvi la verità che c'è un fronte economico, se non sbaglio qualche giorno fa, magari ne chiederemo conto alla collega Nicole degli Innocenti con la quale parleremo dopo, c'era qualche calcolo che indicava l'impatto sul prodotto interno lordo britannico della nascita del Royal Baby. A quanto pare stimola i consumi. Non chiedetemi perché, però a quanto pare stimola i consumi. Le materie prime innanzitutto, con l'oro che sale dello 0,7%, a $1,210 l'oncia, il petrolio dell'1% a $57,5 al barile. Questo quello quotato a New York, il WTI, il Brent, il petrolio del Mare del Nord, a poco sopra i $65 al barile. L'economia internazionale ci racconta innanzitutto delle frasi del presidente russo Vladimir Putin, che dice che è chiaro che non c'è e non ci sarà alcun collasso economico in Russia, le basi fondamentali dell'economia si sono rafforzate, la stabilità non può essere distrutta, tutto questo in un forum trasmesso dalla TV di Stato russa. C'è il prodotto interno lordo inglese, del quale vi dicevamo ampiamente poco fa, per riassumere: una crescita nel primo trimestre dello 0,3%, che è la metà dei tre mesi precedenti e ai minimi da fine 2012. La Grecia, l'infinita vicenda greca. Il primo ministro greco Alexis Tsipras si dice fiducioso che la maratona negoziale con i creditori porterà ad un accordo, non esclude la possibilità di un referendum sull'intesa, esclude invece la possibilità di elezioni anticipate in Grecia nel caso nel quale i negoziati fallissero, i negoziati con i creditori naturalmente. E poi c'è lo snodo politico del ministro delle finanze greco Varoufakis, ve l'abbiamo ampiamente raccontato in Focus Economia, nei giornali radio, che di fatto è stato estromesso dalle trattative con l'Eurogruppo per evidentemente l'eccesso di tensioni accumulato e per lo scarso rispetto che gli portavano gli altri ministri dell'Eurozona. Comunque la si pensi, è andata così. Dice Tsipras: Varoufakis è un grande asset per il governo greco, la mia visione non è per la Grecia fuori dall'euro, aggiunge Tsipras, per quanto appunto riguarda Varoufakis è un grande asset, così dice. Oddio, ricordo un po', per chi ha presente, un po' di vita interna dei partiti italiani. Avete presente quando un capo di un partito dice di un potenziale delfino è una grande risorsa? Vuol dire che non ha la minima intenzione di mollargli il posto, o magari lo sta per fare fuori. Vedremo cosa succederà. Comunque sarebbe allo studio l'applicazione di un'imposta unica sul valore aggiunto, di un'IVA unica, abolendo tutte le esenzioni preesistenti. È quello che riferisce l'edizione online del quotidiano Catimerini, citando funzionari a Bruxelles. Atene vorrebbe introdurre entro la seconda metà dell'anno un'aliquota fissa del 18% per tutti i servizi e i prodotti di base, ad eccezione dei medicinali. Per ora il governo greco smentisce, facendo notare che i negoziati sono ancora in corso. Per quanto quanto riguarda l'Italia, il Tesoro ha venduto il bot semestrale ad ottobre 2015 ad un rendimento pari a zero, collocando tutti i 6 miliardi e mezzo di euro offerti a fronte di una domanda quasi doppia. E a fronte di questi rendimenti scarsi dei titoli di Stato, l'industria del risparmio gestito festeggia e aggiorna nuovi record. Quindi ci si sposta, invece di comprare bot, ci si rivolge al risparmio gestito, ai fondi comuni, per esempio. Il settore è comunque positivo da 9 trimestri, ha raccolto a marzo 23 miliardi e 52 miliardi nell'arco del trimestre. Ci sono interessanti le dichiarazioni, e poi vedremo se seguiranno i fatti ovviamente, del direttore generale dell'ABI, Giovanni Sabatini, il quale dice: il contratto a tutele crescenti, ossia la nuova forma contrattuale prevista dalla riforma del mercato del lavoro, non precluderà l'accesso ai mutui in favore dei lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, ossia quando di fatto è entrata in vigore la riforma con i decreti attuativi. Sul tema sono state alimentate anche ad alto livello, dice, infondate preoccupazioni che ABI ha avuto modo di fugare. Ripeto, per il momento ci fidiamo, vedremo nella pratica che cosa succederà. Abbiamo parlato lungamente nei giorni scorsi e nelle scorse ore della questione dei derivati. Dei derivati sottoscritti dal Tesoro, i contratti derivati, dopo la puntata di Report, dopo l'inchiesta soprattutto del nostro Gatti del Sole 24 Ore, il costo della gestione dei derivati per le casse dello Stato italiano è di circa 3 miliardi l'anno, ovvero il 3,5-3,7% di quello complessivo per il servizio del debito. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera Maria Cannata, che è la responsabile per il debito a Via 20 Settembre, e attribuisce questo costo, ma questo già si era capito, allo sfasamento sui tassi. È una spesa già prevista nel documento di economia e finanza, specifica Cannata, non ci sono allarmi da assecondare, non ci saranno né buchi né sorprese. C'è la ricerca di CNA, poi ci torneremo nella seconda parte della trasmissione. Le tasse sulle piccole e medie imprese iniziano lentamente a calare, almeno a livello generale. L'abolizione della componente lavoro dell'IRAP consentirà quest'anno una riduzione dell'1,7% del peso fiscale complessivo, che scenderà dal 63,9% del 2014 al 62,2% quest'anno. Che non è proprio pochino comunque. A calcolarlo è il rapporto dell'osservatorio CNA sulla tassazione della piccola impresa. Da ricordare che il total tax rate, ossia il complesso della tassazione, resta ancora sopra la soglia del 59,2% che raggiunse nel 2011. Vi abbiamo dato ad inizio trasmissione un po' un quadro di chi sta meglio e chi sta peggio. Reggio Calabria è la città che detiene il primato della classifica 2015 per la tassazione totale al 74,9%, seguita da Bologna. Daniele Vaccarino, presidente di CNA, intervistato da Valeria De Rosa, sottolinea comunque che nel 2015 appunto la morsa del fisco inizierà ad allentarsi. Per la prima volta inverte un segnale e ci porta ad avere un valore medio di meno 1,7%, un valore medio in Italia. È un valore che è medio, punto, perché parte da alcuni che hanno un valore ridotto, meno 1,1, ad altri che hanno valori sensibilmente un pochino più alti, insomma del 2,2-2,5, insomma. Questo è il totale, quella che noi chiamiamo il total tax rate. Su questo massacro per le piccole e medie imprese torneremo più avanti, come vi dicevo, nella seconda parte della trasmissione. Qualcuno scrive via sms al 349-238-6666, avendo perfettamente presente a cosa mi riferissi quando parlavo delle parole di Tsipras su Varoufakis. Chiedono se Tsipras ha anche twittato Varoufakis stai sereno. Non credo. Non credo, però non è male. Whirlpool, la trattativa. Cercheremo di scongiurare in ogni modo la chiusura dello stabilimento di Caserta, dice il ministro del lavoro Giuliano Poletti, che si dice fiducioso sull'esito del confronto. Intanto il gruppo ha chiuso il primo trimestre del 2015 con un utile netto di 191 milioni di dollari, in crescita rispetto ai 160 dello scorso anno, ricavi record a 4,8 miliardi, un più 11%. Sono invece state tagliate le stime sugli obiettivi 2015. Segnaliamo che si registrano segnali di ripresa per la nautica. Il fatturato 2014 si attesta a 2 miliardi e mezzo di euro, con una crescita del 2,1 rispetto al 2013. Sono dati forniti da Lucina, l'associazione di industriali che raccoglie gli industriali del settore, appunto. Ed sono i primi dati della nuova edizione della Nautica in Cifre, che è il lavoro di ricerca appunto sull'andamento del mercato e della cantieristica italiana per il diporto. Veniamo dunque al primo tema di giornata, che è l'Expo. Dunque, mancano 3 giorni. È stata una giornata, quella di oggi, piuttosto complicata anche per Milano, perché mentre all'Università Statale veniva presentata ufficialmente la Carta di Milano, che è questo documento politico che si vuole far sottoscrivere a quante più nazioni del mondo possibili, uno sciopero metteva di fatto in ginocchio la metropolitana di Milano, sostanzialmente ferma dalle 8.45 alle 15 a causa di uno sciopero di un sindacato che si chiama CUB. Tra un attimo sentiremo la voce del CUB che abbiamo raccolto in effetto giorno, che protesta contro un accordo sottoscritto da tutti gli altri sindacati insieme all'ATM, che è l'azienda dei trasporti milanesi, un accordo che prevede che per Expo ci sia un regime particolare, ossia in questi 6 mesi più straordinari, ferie non più di 2 settimane consecutive e tutta una serie di altri elementi che garantiscano il servizio solamente nell'arco di questi 6 mesi. Cuba ha deciso di protestare e si è fermato, sentiremo anche le loro ragioni, come è giusto che sia. Verremo tra un attimo al tema dei padiglioni, ne parleremo con la collega del Sole 24 Ore, Sara Monaci, che ci può aiutare a fare un punto, ma prima parliamo della Carta di Milano, questo documento con una serie di impegni sulla nutrizione sostenibile della popolazione mondiale, che sarà sottoposto per la sottoscrizione a visitatori, rappresentanti di istituzioni, imprese, ONG che vogliano aderire. Una carta che punta ad essere la principale eredità immateriale di questo Expo. Il ministro dell'Agricoltura, Maurizio Martina. Io considero la presentazione della carta un punto di partenza, non un punto di arrivo. I 6 mesi che abbiamo davanti ci diranno tutta la potenza che si può sprigionare nel dibattito sui grandi contenuti che la carta affronta. Voglio dire che qui noi misuriamo l'ambizione politica di Expo e dell'Italia perché la carta è un formidabile strumento di diplomazia dell'Expo. C'è, secondo me, una caratteristica straordinaria che non abbiamo molto riflettuto in questi mesi, cioè Expo è di per sé stessa una piattaforma diplomatica formidabile, forse unica, anzi direi unica, unisce pubblico e privato, governi e istituzioni locali, associazioni e singoli cittadini, ed è un luogo straordinario per provare a fare politica. Sempre sulla carta di Milano, il commissario unico di Expo, Giuseppe Sala. Ci stiamo lavorando da tanto, perché è chiaro che poi tutto ciò emerge negli ultimi mesi, ma in realtà con la Fondazione Feltrinelli ci stiamo lavorando da 2 anni, quindi, come ha detto il ministro Martina, non siamo alla ricerca di titoli, ma siamo alla ricerca di contenuti. C'è una collaborazione dietro di università, di pensatori, di scienziati. Credo che sia un buon documento, io definirei un po' iniziale, perché mi piacerebbe che in questi mesi di Expo fosse approfondito con il contributo dei paesi per arrivare a presentarlo a Ban Ki-moon il 16 ottobre. Sarà un'importantissima eredità, però io penso che bisogna prendere coraggio, associare il lavoro della Carta di Milano con l'idea che giovani ricercatori, che le università, che il mondo della tecnologia trovi ospitalità all'Expo. Io penso che l'idea di trasformare il sito dell'Expo in una nuova università, un nuovo centro di ricerca, sia l'idea vincente, l'appoggio incondizionatamente, credo che sia l'ascito migliore. Are you with me? Are you with me? Michele mi scrive su Twitter: sarò a Milano per il ponte, ancora non ho capito se vale la pena tra la manifestazione del 1° maggio e Expo 2015 incompleto. Non so se sia veramente così incompleto. Sara Monaci, Il Sole 24 Ore, ciao, sì, buonasera. Ciao, buonasera. Sara, come siamo messi allora? No, non sarei così scoraggiato, insomma, inviterei le persone a venire a Milano, fosse anche solo perché comunque è un'occasione rara. Vero che qualche problema c'è, non lo nascondiamo, lo abbiamo scritto e detto più volte. La situazione è questa: sostanzialmente i padiglioni apriranno tutti, come dicono spesso in modo sibillino, nelle parti interessanti, visibili, che vuol dire che qualche allestimento potrebbe essere messo, comunque completato, messo a punto in modo definitivo entro le prossime settimane, ma sostanzialmente poi già da primi giorni l'Expo avrà preso forma. I ritardi a livello internazionale a questo punto sono in parte recuperati, rimarrà non aperto probabilmente quello, comprensibilmente, il padiglione del Nepal, molto bello dal punto di vista architettonico, artigianale, ma per ovvi motivi adesso ha altre priorità. Evidentemente. Sì, tra l'altro, Sala ha detto che gli verranno prestati, per così dire, degli operai bergamaschi, non so perché proprio bergamaschi e bresciani, però così ha detto probabilmente Sala. Probabilmente perché sono stati quelli anche un po' più attivi, abbiamo visto i bresciani in particolare impegnati anche nell'albero della vita. C'è stato proprio un richiamo dal punto di vista industriale nei confronti dell'Expo, però ecco, c'era una raccolta fondi proprio dell'Expo a favore del Nepal. Per quanto riguarda le lacune riscontrate invece nella parte italiana, sono state recuperate un po' nell'ultimo mese, esistono ancora, infatti poi il Palazzo Italia, che però va sottolineato, una struttura diversa dalle altre, è una struttura permanente, un vero e proprio palazzo, mentre le altre sono strutture poi non permanenti ma temporanee, quindi è più facile montarle e smontarle, mentre per Palazzo Italia chiaramente c'è stato bisogno di un lavoro architettonico più complesso. Ci sono state comunque delle varianti che hanno semplificato un po' il lavoro, una struttura molto più imponente perché si parla di 5 piani, di quasi 14.000 metri quadrati, gli spazi espositivi vengono per lo più garantiti, mancherà l'auditorium, qualche ufficio, dicono appunto che i ristoranti già dal 1° maggio dovrebbero essere tutti aperti. Qualche dubbio, diciamo, su quello che viene chiamato il cardo, cioè la strada sempre del Padiglione Italia, dove ci saranno spazi tematici dedicati alle produzioni regionali o al vino, all'olio, anche semplicemente proprio dedicate ad alcune attività, la stessa Confindustria Valli un Padiglione, l'Unione Europea, ecco, questi qui hanno maggiori ritardi anche perché sono stati consegnati in ritardo, quindi diciamo gli allestimenti saranno un po', diciamo così, in mezzo, sì, e mezzo. Allora, Sara, su questo punto ti fermo e poi ci voglio tornare un attimo, perché è vero che c'è questa scadenza del 1° maggio alla quale tutti guardiamo con grandissima attenzione, però non dobbiamo nemmeno dimenticarci che l'Expo, e non è per fare una sviolinata a chi ha organizzato Expo, l'Expo dura 6 mesi e sono rari i casi di esposizioni universali nelle quali tutto era completo il giorno dell'inaugurazione, no? E lo stesso Shanghai aveva molti ritardi, poi comunque va sottolineato a onor del vero che questa è l'Expo che ad oggi ha ottenuto la maggiore adesione, parliamo di 140 paesi, ci saranno 54 padiglioni ed è un record, ricordiamo sono 52 dei paesi, più uno dell'UE, più uno della FAO, più 9 cluster, i cluster sono delle grandi strutture che raccolgono insieme più paesi poveri che non si sono potuti permettere un unico padiglione, però diciamo che sono accomunati da delle tipicità di coltura tipo riso, cacao, cereali, quindi comunque un lavoro molto complesso e di conseguenza anche coordinare proprio dal punto di vista logistico, immaginate l'entrata e l'uscita di materiale da costruzione, ci sono quasi 8.000 operai in questo momento, 5.000 aziende, quindi è un lavoro chiaramente molto complesso, difficilmente si poteva ipotizzare una messa a punto alla perfezione per il 1° maggio. Certo è che i lavori sono oggettivamente iniziati con un po' di ritardo, non tanto per colpa della società di gestione, va anche detto, quanto per dei ritardi accumulati nel tempo, per dibattiti politici sulle aree, su chi comandava e chi no, insomma ricordiamolo, nel 2010, 2011, 2012 si è perso tempo in questo, però va anche detto che l'ultimo anno molto è stato fatto e se paragoniamo la situazione di oggi dell'Expo di Milano a quella di Shanghai sicuramente possiamo essere anche abbastanza orgogliosi, non è perfetto ma sicuramente direi alle persone di andare a visitarlo, ecco. Sì, magari non proprio il giorno dell'inaugurazione, può proprio stare anche appunto, esatto, giugno, luglio, ecco. Grazie a Sara Monaci del Sole 24 Ore, ci scrive intanto Maxi che ci dice: tranviere da 23 anni, CUB e proteste varie per l'accordo di Expo sono patetiche, se non gli sta bene cambiassero lavoro, così dice. Noi tra poco sentiremo la voce che abbiamo raccolto in effetto giorno proprio del sindacalista del CUB che ci spiega perché oggi hanno protestato e perché oggi hanno di fatto fermato la metropolitana di Milano. A tra poco. Quando devi fare tante cose hai bisogno di più energia? Su con Sustemium Plus e Menarini in farmacia. Vi presenta Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, 349-238-6666 per i vostri sms. A proposito del prestito di muratori bresciani bergamaschi al padiglione del Nepal, scrive Ennio da Bergamo, perché bergamaschi e bresciani, ma soprattutto i bergamaschi, sono i migliori muratori, montatori e installatori. Una moglie bergamasca non lo deve dire a me. Andrea, più seriamente, ci dice: perdonami, ma avete elencato i ritardi, ora elencate le cose non fatte, dalle vie d'acqua ad alcuni tratti della metropolitana. Andrea, perfettamente ragione, c'era una parte dei progetti che doveva essere fatto e alla fine si è deciso di non fare per una serie di motivi. Detto ciò, e qua siamo assolutamente nell'ambito delle opinioni personali contestabili, senza star qua a fare gli ottimisti da una parte o i gufi dall'altra, semplicemente qua speriamo che questo Expo vada bene, perché fa bene al paese, molto semplicemente. Quindi vediamo come andrà, lo osserveremo con la consueta indipendenza, con l'occhio che ci contraddistingue, e quando troveremo delle cose che non ci piacciono le diremo. Come dire, non mi sembra adesso il momento delle recriminazioni, almeno da questo lato, almeno dal lato delle opere che poi alla fine si è deciso di non fare. Ma ripeto, sono opinioni ed opinioni personali. Si diceva dello sciopero, lo sciopero di oggi, dalle 8.45 alle 15, che ha fermato la metropolitana di Milano, facendo sorgere anche qualche preoccupazione per quello che succederà nel periodo di Expo. Che cosa è successo? È successo che l'ATM, l'azienda dei trasporti milanesi, ha firmato un contratto specifico per Expo con quasi tutti i sindacati tranne il CUB, dove si prevedono innanzitutto una sorta di premio Expo che mi pare che ammonti a 150 euro e sono 260 per chi fa il macchinista o lavora sulla linea della metro 1, che è quella che poi porta al sito di Expo. Vi si prevedono altre cose, alcune maggiorazioni, ma anche delle possibilità in meno, come il fatto di non poter usufruire, almeno per alcune categorie di lavoratori, di due settimane consecutive di ferie. Sono anche 300 assunzioni già fatte, altre 200 in arrivo. Il CUB non ci sta, sentiamo perché. Sono intervenuti oggi ad effetto giorno, questo è il segretario dei trasporti Milano, Claudio Signore. È stato siglato questo accordo da 7 sigle sindacali. Innanzitutto le modalità sono quelle che non è stato chiesto ai lavoratori di esprimersi a favore o contro, anzi la riserva è stata addirittura sciolta prima del termine delle assemblee. E queste sono le modalità. I contenuti sono sostanzialmente la sublimazione dello straordinario, cioè già con il servizio ordinario in ATM a Milano il servizio viene svolto col 30% di straordinario da parte del personale viaggiante. Per Expo ci viene ulteriormente chiesto di aumentare questa quota di straordinario, ci vengono chiesti 6 riposi in sabato e domenica, dobbiamo restituire questi 6 riposi per quanto riguarda le ferie, noi già da tempo non andiamo in ferie proprio per questa carenza di personale. La media è che ogni tranviere ha circa 50 giorni di ferie residue degli anni precedenti, sì, e compreso quest'anno, e non riesce a fare. Da noi vengono spesso anche negati i permessi per andare anche che dall'accordo si prevedono delle nuove assunzioni, non è che rimanete con lo stesso organico in questo semestre, no? Sì, le assunzioni non si capisce come mai vengono assunte 80 persone nella Lilla, che è una metropolitana automatica e quindi dovrebbe già prevedere meno personale perché non c'è quello di guida, e per il personale viaggiante di superficie vengono assunte 90 persone. Io le dico che nel mio deposito di Viale Salta, che è il più grande, mancano circa 80 turni tutti i giorni senza Expo. Queste 90 assunzioni non coprono nemmeno il turnover delle persone che andranno in pensione di qui a 6 mesi. Non si capisce come mai si assumono tra vigilanza e ausiliari della sosta 150 persone. Qualcuno ridacchia via SMS e dice: ma come, l'hanno sottoscritto solo 7 sigle sindacali? Seriamente, la riflessione che si può fare a margine di tutto ciò è che in realtà, insomma, sarà un po' più faticoso. Io capisco le difficoltà di chi si trova ad operare in questo contesto. Detto ciò, sono solo 6 mesi ed è un evento eccezionale, non è che è un accordo che durerà per i prossimi 20 anni. Quindi forse alla fine questo disagio ai milanesi nella giornata di oggi si poteva evitare. Speriamo che appunto per Expo vada tutto bene. Traffico. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Focus Economia. Domanda di Francesco sulla fonte dei 10 milioni di biglietti venduti. Abbiamo verificato l'attendibilità. Diciamo che tendiamo a fidarci della società e del governo nella fattispecie, non abbiamo evidenze specifiche, cioè non abbiamo accesso ai dati di vendita dei biglietti di Expo. Lo vedremo col tempo. Anche l'ascoltatore che ci scrive che gli Expo non hanno più senso di esistere, con 10 euro vai a Copenaghen. È una cosa diversa, è una cosa diversa, perché non è che viene ricostruita a Copenaghen, non è che le mettono la sirenetta, no, il padiglione danese non ha la sirenetta, è una costruzione diversa, pensata da un architetto con un'idea diversa. Poi non so, c'è un paio di messaggi che hanno... dai quali leggo un momento di coprofilia, per così dire, l'utilizzo è una parola che non mi piace, perché dovremmo dire che l'Expo è quella roba là, è un escremento. No, vedremo che cosa succederà, date tempo, non è nemmeno aperto. Veniamo ai mercati, va, che è una brutta giornata. -1,15% il FTSE MIB, -1,04% il FTSE O'Share, Parigi -1,81%, Francoforte -1,89%, Londra -1,27%. L'America lievemente meglio di prima, +0,31% il Dow Jones, +0,16% lo Standard & Poor's 500. Guido Maurino, Radio Core, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Qua hanno pesato, mi sembra di capire, ti chiedo conferma, in parte i dati sul prodotto interno lordo britannico, dei quali tra l'altro parleremo tra poco, sarà uno dei nostri argomenti di approfondimento, dall'altra i dati sulla fiducia dei consumatori americani, che però in realtà sull'America tanto peso non l'hanno avuto. Che succede? Sì, hanno avuto forse più peso in Europa, perché hanno avuto un effetto sui cambi, con l'euro che si è riportato verso quota 1,10, l'ha anche toccato per un breve momento, per cui ha accentuato leggermente un andamento comunque in calo delle borse europee fin dalle prime battute. Diciamo che sono tanti un po' gli elementi che ancora restano di incertezza, a cominciare dalla Grecia. Ieri era stata una buona giornata, oggi si è rifiatato un po', si aspetta anche di capire un po' quali sono gli orientamenti della politica monetaria negli Stati Uniti col FOMC, per cui diciamo che è un po' una giornata di transizione. Una giornata di transizione, per quanto riguarda i, visto che è una giornata di transizione, per quanto riguarda i singoli titoli, che cosa ci puoi segnalare? Vedo ST Microelectronics che scende del 3,7%. Sì, diciamo che ST Microelectronics arriva da alcune giornate non positive, dopo che sono stati diffusi i conti di Texas Instruments negli Stati Uniti. Più ancora che i conti è proprio la prospettiva che ha indicato Texas Instruments sul secondo trimestre, una prospettiva non positiva che ha impattato in questi giorni anche su ST Microelectronics, in attesa di vedere i conti della società che arriveranno mercoledì notte, quindi per noi giovedì mattina. Ecco. Giù UbiBanca il 3,21%, Fiat Chrysler che scende del 3,07%, Iux del 2,71%, CNH del 2,63%, Popolare Emilia Romagna che cede il 2,6%, Finmeccanica il 2,3%, Mediobanca il 2,27%, Intesa San Paolo il 2,15%, decisamente non una gran giornata. Se si fa eccezione per esempio per Eni, che è in perfetto pareggio. Sì, per quello che riguarda Eni, oggi si iniziava un pochettino a fare una scommessa su quelli che potranno essere i conti che saranno diffusi domani, soprattutto dopo che ieri i conti di Saipem, che è una controllata di Eni, avevano sorpreso in positivo. Saipem aveva guadagnato molto e anche Eni ne aveva tratto beneficio. Eni è andata bene per quasi tutta la giornata, poi ha un po' ripiegato in chiusura, anche perché il prezzo del petrolio, che aveva guadagnato anche l'1% verso metà giornata, nel primo pomeriggio, ha un po' ripiegato nel finale. Vedo Mediolanum che guadagna il 2,5, Azimut lo 0,74, sono anche i dati del risparmio gestito che hanno un impatto. Sono ancora dati molto buoni quelli del risparmio gestito a marzo. La suggestione segnala che il primo trimestre del 2015 è il miglior trimestre da 16 anni, quindi il risparmio gestito continua ad andare molto bene, i titoli esposti sul comparto ne hanno approfittato, sia Mediolanum con questo +2,59%, ma anche Azimut a +0,74%. Altri titoli da segnalare in breve, Guido? Solo Prysmian che ha guadagnato l'1,21%, Ieri sono stati diffusi i conti della francese Nexan, che è una concorrente diretta di Prismian, conti positivi e superiori alle attese, il titolo ne ha beneficiato oggi. Grazie a Guido Maurino di Radio Corriere del Sole 24 Ore, ai colleghi di Radio Corriere del Sole 24 Ore per il consueto aggiornamento sui mercati, e proprio ai mercati e all'andamento dell'euro è dedicato l'appuntamento con i 100 secondi di Radio 24 del Sole 24 Ore, in collaborazione, che vanno in onda anche su Radio Dimensione Suono, oggi a cura di Alessandro Plateroti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Un'altra giornata strana sui mercati finanziari. Mentre da una parte la borsa è debole e gli indici cadono, dall'altra i bot vanno addirittura sotto zero, l'unico fenomeno che continua un po' a creare incertezza è l'andamento proprio della nostra valuta, l'euro. Con la Grecia che è sempre sull'orlo del tracollo, è difficile spiegare per quale motivo, dopo aver raggiunto la più forte caduta dal 1999, da quando è stato creato, la caduta dell'euro si è fermata. Oggi ancora si è addirittura rafforzato. Ma perché allora la nostra valuta sale quando l'economia resta debole e soprattutto ci sono tante incertezze? Ma il conto dovremmo mandarlo nuovamente e purtroppo a Mario Draghi e alla BCE. La marea di denaro che ha messo sui mercati sta infatti provocando degli effetti collaterali che poi gli economisti e anche le persone normali si aspettavano. Ovvero tutto questo denaro che ha messo la banca centrale in mano agli investitori viene utilizzata per comprare titoli di Stato e anche azioni sulle borse. Ma questo che significa? Che anche dall'estero si debbono comprare euro per poter investire in Europa. Proprio questa marea di denaro che la BCE ha messo sul mercato sta creando veramente un floor, ovvero un pavimento che l'euro non riesce più a sfondare. Possiamo anche dirlo in cifre. I fondi che acquistano azioni e obbligazioni europee e italiane hanno registrato nell'anno, dall'inizio dell'anno a oggi, 63,6 miliardi di dollari in più investiti qua, dollari che vengono usati per comprare euro, è un aumento del 70% rispetto all'anno scorso. Che cosa possiamo dire dunque dell'andamento dei mercati? Che con la liquidità che c'è possiamo prevedere ancora dei ribassi dei nostri tassi di interesse, ma dall'altra parte, e questo certamente non aiuta i nostri esportatori e probabilmente neanche la ripresa italiana, proprio questa frenata nella caduta dell'euro potrebbe allontanare quella ripresa forte delle esportazioni e quell'aumento dell'occupazione che tutti quanti stiamo aspettando. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Ancora molti messaggi sull'Expo. Non ho capito cosa vogliono dire i due ascoltatori, mi riferisco a Vincent e Giuseppe. Vincent che scrive: l'Expo non ha senso nell'era di internet, o Giuseppe che dice: con un mondo così globalizzato impiegare risorse per Expo con internet e Google Street View hai l'anteprima di quello che vuoi. Ma è una cosa diversa essere in un posto, vedere gli oggetti. Conforta il fatto che c'è anche qualche sms un po' più attento a quello che può succedere. Qualcuno scrive un po' polemicamente: proprio belli gli italiani, c'è un evento meraviglioso e noi ci facciamo del male. Ripeto, questa è un'impostazione da ottimista. Io non sono ottimista su questo, nel senso che dico che sto a vedere. E sul fatto che l'Expo, qualcuno lo scrive, sia qualcosa di ottocentesco, sarà pure ottocentesco, ma mettiamo che porti la metà delle persone previste, si prevedono 20 milioni di visitatori, mettiamo che ne porti la metà, 10 milioni, nel mio paese, queste persone visitano Milano, Roma, conoscono il mio paese, conoscono come si mangia, e riusciamo ad accoglierli decentemente, beh, comunque sarà stato un successo, se riusciamo a farlo bene, GR, poi ci ritroviamo, parliamo della Gran Bretagna, dei dati della Gran Bretagna e non solo di quello, di tasse. Focus Economia. buonasera da Simone Spezia, benvenuti alla seconda parte di Focus Economia. Curiosamente a due ascoltatori che ci scrivono al 349-238-6666 in merito a chi ci scriveva prima e diceva ormai con Google Street View a che serve una cosa come Expo, due che rispondono nello stesso modo. È la stessa differenza che passa tra fare l'amore e andare su YouPorn. Non male. Siamo all'economia britannica, alla vigilia di un voto importante tra una decina di giorni. L'Ufficio Nazionale di Statistica ha diffuso i dati sulla crescita economica inglese nel primo trimestre di quest'anno. Il dato è il peggiore dal 2012. Sui tre mesi il PIL è cresciuto dello 0,3%, tasso inferiore alle previsioni e dimezzato rispetto allo 0,6% del trimestre precedente. Servizi che compongono oltre il 78% dell'economia britannica, dai quali ci si attendeva una crescita in grado di contrastare la contrazione degli altri settori, hanno registrato un incremento di mezzo punto percentuale, in rallentamento rispetto allo 0,9 del trimestre precedente. Nicole degli Innocenti del Sole 24 Ore da Londra, buonasera Nicole. Buonasera. Allora, naturalmente vogliamo parlare di questo dato in un'ottica elettorale soprattutto, perché qualcuno ha commentato una bella botta per Cameron, è così? Beh, la prima vista sì, sicuramente il momento è il meno indicato per il governo, perché Cameron e il suo governo hanno puntato proprio sulla ripresa dell'economia. Nicole, ti devo fermare perché abbiamo un audio atroce. Adesso proviamo a richiamarti, proviamo a risentire un attimo, a recuperare la linea. Intanto vi segnalo sempre sulle elezioni inglesi. Gli ultimi sondaggi vedono un testa a testa tra laburisti e conservatori, entrambi attestati intorno al 33%. Il terzo partito sarebbe lo UKIP con il 13%. È sempre di oggi, dalla Gran Bretagna, il conto per l'economia britannica, se Londra dovesse mai davvero uscire dall'Unione Europea, secondo l'analisi di un think tank tedesco, Bertelsmann Stiftung, sarebbe di 224 miliardi di sterline, siamo ben oltre i 300 miliardi di euro. Introdotto l'argomento, magari ci torniamo dopo se riusciamo a recuperare la linea con Nicole degli Innocenti. Facciamo una cosa, passiamo dalla Gran Bretagna al Made in Italy, va? Made in Italy che è stato premiato ieri al Quirinale con i premi Leonardo 2014, sono riconoscimenti conferiti ogni anno dal Comitato Leonardo a coloro che si distinguono per creatività, innovazione, saper fare italiano. Siamo alla 20ª edizione, i premi li ha dati il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Intervento del presidente della presidente del Comitato Leonardo, Luisa Todini. Stiamo vivendo una convergenza epocale. L'euro è più debole, il prezzo del petrolio è in forte calo, i tassi di interesse sono bassi, molto bassi, ma soprattutto c'è finalmente una politica monetaria espansiva. Sono fattori che, insieme alle riforme attuate ed in corso di attuazione, possono davvero trainarci fuori dalla recessione. E non dimentichiamo il volano di Expo 2015, quello che inizierà Tra pochi giorni sarà un vero viaggio emozionale nell'Italia delle eccellenze. Mostreremo un'Italia di cultura, di territori, di tradizioni, di industria. La sfida più grande sarà quella di presentare al mondo un paese dove sia facile investire e fare impresa, con una politica fiscale più consona alle reali condizioni del paese, burocrazia più semplice, poche regole del gioco, ma chiare e tali che possano essere puniti solo i disonesti e premiati coloro che sono davvero bravi e meritevoli. Noi imprenditori lo sappiamo ogni giorno che la corruzione si combatte facendo funzionare il libero mercato in maniera efficace, in maniera trasparente. I premi Leonardo dimostrano che siamo un'Italia operosa, che studia, che lavora, crea con passione ed impegno. Un'Italia che fa impresa per investire e per creare posti di lavoro. Dice bene Luisa Todini, impresa che lo fa tra mille fatiche. Tra poco andremo su questo rapporto della CNA sulla tassazione, che indica che il total tax rate, ossia la pressione fiscale complessiva sulle imprese, tocca picchi del 75% a Reggio Calabria. 75%, signori. Comunque, il premio Leonardo 2014, riservato ad un personaggio che si è distinto per promuovere l'immagine dell'Italia nel mondo, è andato a Nerio Alessandri, presidente di Tecnogym. L'intervista è di Alessandra Schepisi. Sono felice di questo riconoscimento, che rappresenta un nuovo punto di partenza e non certamente un punto d'arrivo. Quindi lo dedico ai miei collaboratori, lo dedico alla mia famiglia, a tutte le persone che hanno creduto nella nostra azienda. Noi siamo sempre, come dire, positivi e soprattutto motivati a continuare a innovare, a spingere sugli investimenti in temi di ricerca e sviluppo e soprattutto internazionalizzazione. Questi sono ingredienti che comunque aiutano l'azienda a crescere. L'azienda nel 2014 è cresciuta oltre doppia cifra, quindi più del 13% di crescita. Abbiamo anche per il 2015 in programma un obiettivo di crescita importante, e quindi questo grazie agli investimenti in ricerca, sviluppo e soprattutto nelle persone, quindi formazione e motivazione. Ora abbiamo un grandissimo appuntamento importantissimo, che è l'Expo 2015. Tecnogym è wellness partner ufficiale dell'Expo, avremo una presenza enorme dentro con servizi per i visitatori wellness, e porteremo la salute, il benessere, il movimento, il wellness insieme all'alimentazione come Made in Italy. Traffico, e poi ci ritroviamo per parlare finalmente di Gran Bretagna, perché pare che abbiamo ripreso la linea con Nicole degli Innocenti. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Focus Economia. Io non ho capito, però insomma poi ci sarà modo di parlarne anche nei prossimi mesi e nelle prossime settimane. Lo dico francamente, perché c'è qualche ascoltatore che ci scrive qualcosa di positivo su Expo, altri sono particolarmente negativi, soprattutto su quello che ho detto prima. Io non capisco che cosa c'è di male a sperare che l'Expo vada bene, ma non a dire sono ottimista, sono sicuro che andrà bene, a sperare che l'Expo vada bene. Ma mi sembra una cosa normale, una cosa che dovremmo sperare tutti. Poi con l'occhio dei giornalisti vedremo come andranno effettivamente le cose. Chiudiamola qua, almeno per il momento, ripeto, ci sarà modo di tornarci, insomma sono sei mesi di manifestazione, mancano tre giorni all'inaugurazione, e torniamo appunto alla Gran Bretagna. Nicole degli Innocenti, speriamo che adesso la linea regga, eccoci. Ma la Gran Bretagna è pur sempre un'isola. Certo, non male. Senti una cosa, allora Cameron è preoccupato da questi dati sul prodotto interno lordo, come ha reagito, come ha reagito l'opposizione, può avere effettivamente un impatto tutto questo sul voto oppure no? Cameron e soprattutto il suo cancelliere George Osborne sono stati molto abili, perché hanno ribaltato la frittata diciamo, dicendo che questo dato di debolezza della crescita dimostra che è un momento ancora delicato e che quindi non si può dare per scontata la ripresa e che il futuro dell'economia, ha detto il cancelliere, sta proprio sulla scheda elettorale il giorno delle elezioni. Quindi hanno ribadito il messaggio chiave della loro campagna elettorale, che solo un governo guidato da loro può, che ha già rimesso in carreggiata un'economia che era in profondissima recessione, può adesso completare l'opera, azzerare il deficit e rendere sostenibile la ripresa. E la loro affermazione ovviamente è che un governo laburista invece metterebbe a repentaglio la ripresa, tornando alla politica appunto delle spese pazze. I sondaggi non sembrano tendere verso una riconferma valanga, per così dire, anzi, Nicole. I sondaggi sono inchiodati da mesi, incredibilmente. Proprio stamattina è uscito un sondaggio che dava 3 punti di vantaggio ai laburisti e un altro sondaggio, tutti e due di diciamo enti assolutamente seri e affidabili, che dava un vantaggio dell'1% ai conservatori. Quindi diciamo che sono inchiodati i due partiti principali in un testa a testa ed è molto difficile prevedere quale sarà il risultato delle elezioni, se non che molto probabilmente non ci sarà un governo di maggioranza e quindi ci sarà una situazione di grande instabilità, che ovviamente non è positiva per l'economia. E perdona, e gli altri, quelli cosiddetti minori, che poi più tanto minori non sono? E gli altri avranno un ruolo decisivo, soprattutto gli scozzesi nazionalisti, che hanno avuto un dopo il referendum, che hanno perso, invece di sparire si sono rafforzati incredibilmente. Ovviamente c'è sempre UKIP, che è il partito appunto anti-immigrazione, anti-Unione Europea, che potrebbe avere un risultato positivo. Quindi questi piccoli partiti, come i liberal-democratici ovviamente, che sono al governo, sono stati al governo negli ultimi 5 anni, sono partiti che potrebbero, tutti e tre dicono che potrebbero essere l'ago della bilancia. Ovviamente dipende da quanti voti avranno e cosa verrà fuori. Comunque il dato di oggi non è negativo per Cameron più di tanto, proprio perché tutti gli economisti hanno detto che è un rallentamento temporaneo e che le prospettive restano positive. Si parla di crescita del 2,8, fra il 2,8 e il 3% nel 2015, quindi ben al di sopra degli altri paesi del G7. Grazie a Nicole degli Innocenti del Sole 24 Ore. Andiamo a chiudere in quest'ultima parte della trasmissione. Parliamo di tasse. Secondo la CNA, la Confederazione Nazionale Artigianato e Piccole e Medie Imprese, le tasse sulle piccole e medie imprese iniziano lentamente a calare. L'abolizione della componente lavoro dell'IRAP consentirà quest'anno una riduzione dell'1,7% del peso fiscale complessivo, che scenderà dal 63,9% del 2014 al 62,2% di quest'anno. E poi hanno stilato una classifica città per città, dalla quale emerge per esempio che a Reggio Calabria la pressione fiscale complessiva sulle imprese si attesta al 75%. Gianni Trovati, al Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Ma quando parlano di pressione fiscale complessiva, cosa intendono? Intendono la componente fisco e contributi erariale, il fisco regionale in cui domina l'IRAP e il fisco comunale in cui domina l'IMU, e poi c'è la TASI e la tassa dei rifiuti. Sì, la buona notizia relativa, diciamo così, è che quest'anno c'è una discesa dell'1,7% grazie al fatto che la finanziaria, come ci ricordiamo, è stata abolita la componente lavoro dalla base imponibile dell'IRAP, cioè non si paga più l'IRAP sulla componente del costo del lavoro. Naturalmente questa mossa sulle grandi imprese e sulle imprese nei settori ad alta intensità di lavoro ha effetti molto più importanti. Sulla piccola impresa, dove spesso c'è un'impresa individuale oppure c'è l'imprenditore e un dipendente o cose di questo tipo, naturalmente naturalmente l'effetto è minore. Proprio per questo, oltre a essere minore, è incerto, perché i calcoli devono ancora tenere conto del fatto che sul versante del fisco locale le incertezze sono ancora oggi maggiori rispetto alle certezze. I bilanci e quindi le aliquote si devono fare entro il 31 maggio, siamo in attesa da settimane di un decreto enti locali che aiuti un po' i comuni a far quadrare i conti, ancora non c'è nulla, e di conseguenza eventuali aumenti ulteriori di aliquote locali potrebbero erodere questo 1,7%. Poi c'è il dato della differenza fra le città. Allora, leggiamo le prime quattro: Reggio Calabria, le prime quattro per pressione fiscale. Sì. Reggio Calabria, Bologna, Napoli, Roma. Cosa vuol dire? Al di là di Bologna, poi abbiamo Catania, Bari, Salerno. E Firenze, diciamolo, perché sennò poi ci dicono che siamo renziani. Firenze quinta in classifica è Firenze, sopra quinta. Il 70%. Mentre dove le imprese stanno meglio, o meglio dove c'è minor pressione fiscale, Cuneo, Gorizia, Sondrio, Belluno e Udine, le prime cinque. Cosa vuol dire? Che tendenzialmente è nelle grandi città e al sud che l'impatto della dinamica della tassazione locale è stato più intenso. Questo dipende dal fatto che prendiamo un comune del sud, le basi imponibili sono meno ricche di quelle del nord, quindi tu devi aumentare le aliquote. Il problema è che aumentando le aliquote aumenti ovviamente anche la pressione fiscale, quindi rendi più difficile creare reddito, e questo determina un circolo vizioso che il cosiddetto federalismo, perché poi il federalismo, ricordiamo, diciamoci sempre, in Italia non c'è, però dico il cosiddetto federalismo all'italiana ha accentuato questo circolo vizioso, colpendo soprattutto le aree più in difficoltà. Questo dipende sia dalle regioni, molte regioni del mezzogiorno in questi anni hanno avuto aumenti fiscali obbligatori per rientrare dall'extra deficit della sanità, sia i comuni, e naturalmente fa male all'economia, in particolar modo nelle regioni più in difficoltà. Sì, da dire da questo punto di vista che anche la capacità di contenimento dei costi di una serie di comuni del sud assolutamente è debolissima, insomma, quindi non è solamente evidentemente una come dire, una questione di circolo vizioso che si innesta. Forse il circolo vizioso, Gianni, si potrebbe interrompere esattamente andando a fare una spending review comunale fatta come Dio comanda. È un incrocio naturalmente di fattori che determinano questo risultato. La CNA lo mette bene in luce: il tax free day, cioè il giorno in cui l'impresa smette di lavorare per il fisco e comincia a lavorare per se stessa, a Cuneo è il 17 luglio, quindi dal 18 il piccolo imprenditore di Cuneo lavora per creare reddito per sé. La stessa cosa a Reggio Calabria avviene non il 17 di luglio ma il 29 di settembre. Il 29 di settembre, il 29 di settembre. Cioè, praticamente siamo alla fine dell'anno. Rimangono gli ultimi tre mesi, ma perché ovviamente tre quarti del reddito viene mangiato da pressione fiscale contributiva nazionale e locale. Allora, Gianni Trovati, io ti ringrazio. Gianni Trovati al Sole 24 Ore. Noi, prima di andare a chiudere, vi facciamo sentire un passaggio dell'intervista al presidente di CNA, Daniele Vaccarino, intervista realizzata da Valeria De Rosa. Poi siamo quasi in chiusura, sentiremo un minuto, la troncheremo un po' brutalmente e poi ci sarà lo spazio per i saluti. Sentiamo. Per la prima volta inverte un segnale e ci porta ad avere un valore medio di meno 1,7%, un valore medio in Italia. È un valore che è medio, punto, perché parte da alcuni che hanno un valore ridotto, meno 1,1, ad altri che hanno valori sensibilmente un pochino più alti, insomma del 2,2-2,5, insomma. Questo è il totale, quella che noi chiamiamo il total tax rate. Quindi diciamo che in qualche modo la pressione fiscale sulle piccole e medie imprese quest'anno, a condizioni invariate, sarà leggermente inferiore, quindi sarà diciamo il carico sarà leggermente inferiore. Sì. Devo però fare una precisazione perché è importantissimo. Allora, noi abbiamo preso un'impresa vera, fatta di 5 dipendenti, un piccolo capannoncino, eccetera, che è reale, che fattura 430 mila euro e che, annui, e che ha un finale, prima delle tasse, di 50 mila euro di reddito. Questa impresa è stata spostata su 113 città italiane vere, e abbiamo provato a fare i calcoli all'interno di un'impresa che comunque con gli studi di settore era congra, coerente, quindi era perfettamente apposta col fisco, vedere quanto avrebbe pagato di tasse. Da tutta questa disamina l'abbiamo analizzata negli anni e quest'anno c'è una detrazione. Perché c'è la detrazione? Perché c'è la detrazione sul carico IRAP dei dipendenti, che non interviene più, il costo del lavoro sul calcolo dell'IRAP. Questa è la motivazione perché ciò avviene. Siamo a chiudere, e prima di chiudere fatemi rispondere ad un ascoltatore che avevo lasciato in sospeso e che mi ha scritto via Twitter. Dice Filippo, ci scrive: ma come non andate a visitare l'Expo il primo maggio? E chi ha acquistato il biglietto 3 mesi fa? Non abbiamo detto di non andare a visitare l'Expo il primo maggio, diciamo solo che il primo maggio, giorno dell'inaugurazione, sarà pieno di ministri, sarà tutto un po' più complicato. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia, a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi in redazione, a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, Focus Economia torna domani dopo il GR delle 17 con Sebastiano Barisoni. Radio 24. La passione si sente.